con Gabriella Gallozzi, curatrice della settima edizione del premio Bookchuck Azione, al Lido di Venezia, la Villa degli Autori, il prossimo 28 agosto. Gabriella, ben trovata. Grazie Federico. Eccoci, allora, quest'anno il premio Bookchuck Azione, che è dedicato come sempre all'intreccio fra cinema e letteratura, si rinnova con una sezione ad hoc dedicata alle detenute di Rebibbia, o meglio, alle allieve dell'Istituto Artistico Statale Enzo Rossi, interno a Rebibbia femminile. Le detenute, insieme ai docenti, hanno lavorato a dei laboratori interdisciplinari e hanno realizzato quindi con l'aiuto degli insegnanti i loro bookchuck, anche loro a partire ovviamente dai libri. E devo dire che il risultato è stato straordinario, segno che anche i temi dei libri che abbiamo scelto quest'anno erano loro molto vicini. Infatti, in particolare, avevamo Dal tuo terrazzo si vede casa mia di Elvis Malai, che è una raccolta di racconti di questo autore albanese che poi straordinariamente è entrato anche nella dozzina dello Strega quest'anno, che è appunto sono racconti anche diciamo in chiave ironica, ma comunque sull'identità, sul razzismo, sui luoghi comuni, sugli immigrati e il ribaltamento degli stereotipi. E l'altro libro, Io Marinaro, la vita avventurosa di un migrante del mare di Mario Foderà, Libera Età Edizioni, cioè sappiamo appunto che è la casa editrice del sindacato, dello SPCGL, dove appunto è un vecchio sindacalista di Mazara del Vallo che raccoglie la vita e le memorie dei pescatori del porto e costruisce come un mosaico appunto la vita di questo pescatore che, come dire, di fantasia, che è un personaggio che è un po' una sorta di Malavoglia contemporaneo, moderno, dove però appunto siamo alle prese con le cambiali, con i pirati, con le mogli africane. Questi due libri che fanno parte appunto dei libri che abbiamo selezionato quest'anno, nel caso appunto del lavoro svolto a Rebibbia, come dire, hanno ottenuto un riscontro insomma emotivo molto forte, perché se consideriamo che questa classe di studentesse di Rebibbia è composta, credo, da nessuna italiana, ma appunto ci sono di tutte le nazionalità, il tema delle migrazioni è un tema evidentemente che stava loro a cuore parecchio. Appunto, a questo punto dico quali sono gli altri due libri che Sì. abbiamo scelto per il concorso e sono L'estate muore giovane di Mirko Sabatino, edizioni Nottetempo, che appunto è un romanzo di formazione ma durissimo, ambientato nella Puglia del 63. E poi un graphic novel, come ogni anno scegliamo un graphic novel, Residenza Arcadia di Daniel Cuejo, Bau Publishing, la casa editrice di Zero Calcare. E questo è un racconto, un graphic novel, diciamo un racconto distopico su un futuro orwelliano in cui siamo in un condominio dove la presenza appunto di un estraneo, anche in questo caso di uno straniero, insomma, crea dinamiche collettive un po' di fobia. E quindi temi insomma molto legati purtroppo all'attualità che stiamo vivendo. Oltre alla novità della sezione dedicata appunto alle detenute di Rebibbia, l'altra novità di quest'anno è stata la partecipazione in massa degli studenti del centro sperimentale della sede Lombardia, quello diretto da Maurizio Nichetti. La docente Alessandra Pescetta, che poi è anche una bravissima regista nonché videoartista, ha organizzato proprio delle classi specifiche sui bookchuck, cioè ha dato ai ragazzi da leggere questi quattro libri e loro appunto hanno lavorato sul tema. E quindi insomma in effetti, come dire, c'è stata questa grande partecipazione, anche i lavori sono stati molto molto interessanti. Vedremo poi il 28 chi vincerà di loro. E la sezione Memory Shack, anche quest'anno in collaborazione con lo SPCGL, e come abbiamo fatto anche nella scorsa edizione, questa sezione è quella dedicata alla memoria, proprio perché i libri che scegliamo per questa sezione sono i libri pubblicati dalla casa editrice che edita le memorie, insomma i racconti dei pensionati. proprio nell'idea di rimettere in circolo la memoria. Bucciacazione è un premio dedicato ai ragazzi, ai giovanissimi, è la vetrina che offriamo loro per arrivare al Festival di Venezia. Quindi l'idea di rimettere in circolo la memoria proprio con le memorie degli anziani, cioè dei pensionati, fatti realizzare dai giovani, ci sembra l'idea bella proprio di, come dire, contribuire a questo circolo di riattivazione della memoria legata anche ai temi del lavoro, ai temi sociali, insomma ai temi dell'integrazione. Queste diciamo le basi di questa edizione, settima edizione. Come ogni anno noi scegliamo un presidente di giuria che accompagna i nostri giurati oramai fedelissimi e amici, cioè i giurati stabili sono Vilma Labbate, Teresa Marchesi, Gianluca Arcopinto, e quest'anno a presiedere la giuria è Lidia Ravera, la scrittrice, ex assessora alla cultura della Regione Lazio della passata stagione. E tra i nostri ospiti quest'anno ci sarà anche appunto Maurizio Nichetti, perché in quanto direttore del Centro Sperimentale di Milano, quindi sarà con noi anche lui il 28 alla Villa degli Autori. Faremo questa serata che ormai è diventato un appuntamento tradizionale, cioè una serata dedicata alla stampa con il brindisi di benvenuto alla Villa degli Autori in collaborazione con il Sindacato Nazionale Giornalisti Cinematografici, con le giornate degli autori ovviamente, con lo CGL, e tutti insieme, come dire, festeggiamo i vincitori del nostro premio, che vengono appunto, vengono lì con noi, proiettiamo i loro video, i loro bookshack, e poi tutti insieme si va a brindare nello splendido giardino della Villa degli Autori. In chiusura, per tutte le informazioni ci lasci i riferimenti web? Assolutamente, da quest'anno abbiamo un sito ad hoc dedicato al premio, che è www.premio-bookshack-azione.it, e lì trovate tutto. Benissimo, allora un ringraziamento e un saluto a Gabriella Gallozzi, curatrice della settima edizione del premio Bookshack Azione al Lido di Venezia, Villa degli Autori, il 28 agosto. Gabriella, un abbraccio, in bocca al lupo e alla prossima. Grazie. Grazie a voi.